pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Vi aspettavo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi aspettavo da tempo, lo so, mi sono presa questa pausa dalle notizie della settimana, ma alla fine penso ve ne siete accorti anche voi, no? Per curiosità, diciamo che sono stati alcuni giorni, non tutto il tempo da cui non ci sentiamo, un po' di giorni non mi interesso delle notizie, non voglio sapere nulla, già ognuno già i suoi casotti, eccetera. E quando tu torni a informarti nuovamente, scopri che, tutti conoscerete Beautiful, io penso di aver visto l'ultima puntata forse 12 anni fa, tu riaccendi la televisione su quella serie e non hai bisogno di avere un riepilogo, perché tutto più o meno si mantiene uguale, anche diciamo per quanto riguarda la situazione italiana, magari quella internazionale è un po' più mobile, essendo così grande, di più vaste proporzioni, però in Italia uno può stare tranquillo che se perde qualche colpetto poi in realtà tutto è torni completamente aggiornato. L'estate sta finendo, lo sapete che non mi va, non va probabilmente neanche a voi, un'estate che è stata un po' così balzana come è stato un po' tutto quest'anno, perché io vi ripeto da anni che non ci sono più le mezze stagioni, anche se adesso ve lo ripeterò probabilmente solo per altre due volte oltre a questa, perché forse qualcuno già lo sa dalla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Non è che mi pensiono, ho ancora parecchi parecchi anni purtroppo da una parte di lavoro davanti, diciamo che cambio spazio, forse sarà uno spazio serale, forse informativo, vedremo, man mano vi aggiornerò. Ricordatevi, ci sentiamo fino a fine settembre, fino al 28, quando non ci sono più le mezze stagioni, poi mi troverete, per chi vorrà, spero in molti, in un altro orario, in un altro spazio. Ma intanto siamo col nostro appuntamento di sempre e vi voglio dire perché anche questa settimana, anzi prima andiamo con le notizie, poi vi racconterò perché anche questa settimana non ci sono più le mezze stagioni, però Carmelo Lauricella della parte tecnica mi guarda un po' perplesso, dice perché vuoi cambiare, va bene, no, raccontiamo perché non ci sono più le mezze stagioni anche questa. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Diciamo che una costante della vita umana è quella sempre di chiedersi, fra tantissime altre cose, quando finirà il mondo e come finirà il mondo. Insomma, negli ultimi decenni ci siamo sempre detti per colpa dei cambiamenti climatici, che sono poi colpa nostra principalmente, no? Anche se in questi giorni, non so se avete visto le foto dai satelliti che hanno fatto litigare vari esperti, perché i ghiacciai sembra che invece si siano allargati, no? Loro dovrebbero essere il termometro del cambiamento climatico perché si riducono man mano, invece pare che si siano allargati, ma non è certo questo, neanche su queste cose possiamo avere delle certezze. Ebbene, secondo un rapporto stilato da 27 prestigiosi studiosi internazionali, ma soprattutto inglesi, il mondo non finirà per i cambiamenti climatici e nemmeno per il maxi asteroide, no, che tutti ci aspettiamo da tempo, arriva questo maxi asteroide che fa esplodere il mondo. No, al primo posto sulle cause più probabili, sentite bene, la tecnologia intelligente, non fosse intelligente, una rete di computer, attenzione, secondo questi studiosi potrebbe sviluppare una mente propria, che mi chiedo come sia possibile, e usare con le risorse per i propri scopi, a spese dei bisogni dell'umanità. Vi immaginate questa rete telematica che si mette tutta d'accordo tra se stessa? Oppure al secondo posto, attacchi informatici. Il mondo moderno è basato e si gestisce grazie a un sistema di interconnessioni, lo sappiamo, e se queste dovessero collassare a causa di un attacco terroristico, la paralisi sarebbe totale. Al terzo posto, il bioterrorismo. Insomma, non ci sono veramente più le mezze stagioni. Ma andiamo adesso invece a capire molto sinteticamente, come sempre, quali sono state le notizie che hanno mosso questa settimana. Direi il caso Berlusconi ha tenuto banco, ma negli ultimi mesi, per questo vi dico, uno può non essere aggiornato su quelle cose più recenti, ma alla fine ritrova quella situazione, no? Sapete, questa lotta tra PD e PDL sulla decadenza di Berlusconi da senatore dopo la sentenza definitiva di Mediaset, su Mediaset, e quindi c'è questa piccola tregua per nella giunta delle immunità delle elezioni del Senato, per cui si è arrivato all'accordo. Si voterà mercoledì, è un iter però un po' complesso, sinteticamente, insomma, si voterà mercoledì nella giunta. seduta. Decadrà probabilmente il relatore che c'è adesso, Augello, del PDL, se ne dovrà nominare un altro. Poi ci sarà tutta l'autodifesa di Berlusconi. Insomma, a un certo punto, ai primi di ottobre, forse si dovrebbe arrivare al voto definitivo al Senato. Come andrà a finire? Ci sono anche le vostre risposte sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Spero poi di avere il tempo di leggerne qualcuna. Per quanto riguarda la situazione economica, Letta, il Presidente del Consiglio, ha rassicurato l'Europa. No, non vi preoccuperete, non sforeremo il tetto del 3%, il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Confindustria dice per l'Italia c'è una svolta vicina. Saccomanni, dice il Ministro dell'Economia, bisogna guardare al futuro. Letta ha anche detto la ripresa c'è, bisogna solo afferrarla. Quindi siate pronti, muscoli e soprattutto riflessi molto pronti. Nelle prossime settimane, intanto, però, c'è la questione dell'Ilva, che ripiomba in mezzo allo scenario nazionale. Che fanno i Riva, il gruppo Riva Acciaio? Dopo che c'è stato un sequestro nei giorni scorsi di beni mobili e immobili e conti correnti per 916 milioni di euro, loro che fanno? La famiglia Riva, che ha inquinato, disastro ambientale, inchiesta che c'è. Dice, dobbiamo chiudere circa 7 stabilimenti, prima erano 7 e poi 13, insomma comunque ci sono 1400 addetti che rischiano la disoccupazione. E poi c'è stato l'incidente sul lavoro a Lamezia Terme. Una ricerca di UBS dice che però qualcuno continua a cavarsela bene, sono i paperoni italiani, sono i super ricchi che hanno in portafoglio 180 miliardi e sono in Italia circa 200.000 che hanno un patrimonio ciascuno di 30 milioni di dollari e più, almeno qualcuno va bene. Intanto non è chiaro quando ci sarà la decisione sul finanziamento pubblico ai partiti. Le buone notizie sono che il giornalista della Stampa, che era da mesi ostaggio in Siria, è libero. C'è la crisi siriana di mezzo con i tentativi diplomatici. Sapete tra l'altro che in Siria, con oltre 100.000 morti dall'inizio della crisi siriana, questa crisi in Siria ha già causato il triplo delle vittime del conflitto in Libia nel 2011 e ha superato i 2/3 del numero di vittime provocate dal conflitto dei Balcani negli anni 90, vi rendete conto? Poi l'America ha ricordato l'11 settembre, c'è stato anche il 40° anniversario del golpe militare di Pinochet in Cile. Tutti i fatti di cronaca di cui anche questa settimana sono sempre vittime le donne, tanto per dimostrare che ci sono invece le mezze stagioni, cioè le cose vanno sempre più o meno uguali anche su queste cose. A Fukushima continua a uscire vapore radioattivo, mentre il primo ministro mesi fa aveva detto ma riprendiamo col nucleare anche se abbiamo deciso di no. Insomma, la morte di Alberto Bevilacqua con degli indagati per la sua morte. La scuola che riprende. In India sapete che ci sono state per quell'orrendo stupro di mesi fa, questa studentessa di 23 anni in quattro sull'autobus l'avevano aggredita, violentata e poi torturata con delle spranghe di ferro, potete immaginare come, era morta dopo una lunga agonia per le gravissime lesioni interne. Bene, sono stati condannati a morte in India. Poi c'è la morte nella musica, il lutto nella musica di Jimmy Fontana. Direi che ci siamo raccontati abbastanza, che adesso sarebbe ora di passare all'opinionista estemporaneo di oggi. Michele Ainis. Eccoci. Oh, salve. Michele, subito pronto. Sai, ho avuto un po' il timore che tu fossi andato a Porcini. Dico, non è che Michele, questa stagione così semi-autunnale, che sai che il governatore della regione Liguria, burlando, è stato polemico perché c'era una seduta della regione, l'inizio diciamo delle sedute della regione, e ha postato su Twitter la sua immagine con dei porcini giganti, era andato a funghi nella prima giornata. Lui diceva insomma, come avevano detto che era un altro giorno quello della prima riunione del consiglio regionale, poi invece ha spostato, io ormai avevo preso l'impegno con i porcini, tu invece sei no, né porcini né porcello, quello è un'antipatia abbastanza generalizzata tranne che per la classe politica, e ne parleremo anche di questo. Su cosa possiamo iniziare? Mi sembra abbastanza scontato, in genere cerco di non esserlo, però è una cosa talmente centrale questa. Poi parleremo anche di riforme, che ho visto il tuo editoriale, sei tra l'altro tra i saggi, questa commissione di saggi che dovrebbe decidere come, i tempi, le modalità del cambio di alcuni punti della Costituzione. Ma sul caso Berlusconi, che idea ti sei fatto? Qualcuno dice sarebbe meglio che si dimettesse prima del voto in Senato e così insomma acquisterebbe ulteriore popolarità, dignità e da statista eccetera eccetera, invece di farsi poi l'esito è scontato per molti del voto, no? Per la sua decadenza. Ma questa è una decisione individuale, ma è anche una decisione carica di significati politici, la prenderà l'interessato. Diciamo, la materia è diventata molto eccitante per i giuristi, i quali hanno tirato fuori moltissime interpretazioni. C'è la legge Severino, che è questa che stabiliva che se sei condannato a più di 2 anni in Parlamento devi mollare, insomma te ne devi andare, sì, no? Sì. Mm. Adesso io non vorrei, diciamo, guastare il sabato a chi ci ascolta entrando nei profili tecnici, a meno che tu non me lo ordini. Allora te lo ordino, purché siano sintetici questi profili tecnici. Cioè, insomma, sulla retroattività, su tutte queste cose che si discute della legge Severino, insomma, prima tutti la sbandieravano come una cosa emblema di legalità, quando l'hanno votata tutti questa legge Severino, adesso però non va più bene. Sì, ed è vero che le norme penali non possono essere retroattive, questo lo dice un certo articolo della nostra Costituzione. Si tratta di vedere se noi siamo dinanzi ad un effetto penale oppure no. A me parrebbe che entri in gioco un'altra norma della Costituzione, che è l'articolo 48. L'articolo 48 regola il diritto di voto, quindi il diritto di votare, ma anche di essere votati, quindi elettorato attivo ed elettorato passivo. Michele, perdonami se ti interrompo, devo solo ricordarmi una cosa che è persa un po' l'abitudine, il numero verde per le ascoltatrici e gli ascoltatori che possono naturalmente intervenire con le loro libere opinioni su quanto stiamo dicendo sui fatti della settimana. Lo ricordo un attimo, 800 24 00 24, numero verde, quindi gratuito ma anche ecologico, perché evitate di disperdere nell'ambiente le vostre idee, il vostro tempo, la vostra intelligenza. 800 24 0024. Ecco, prego Michele, scusa. Allora, no, riprendendo il filo, sì. Il diritto di voto non spetta a tutti, per esempio non spetta ai bambini, no? Quindi ci sono dei fattori che la stessa Costituzione indica e altri poi rinvia alla legge, affidandole la precisazione di questi fattori, che limitano il diritto di voto e quindi anche il diritto di essere votati. Per esempio l'età: tu non puoi essere votato se non hai raggiunto 25 anni alla Camera o 40 al Senato. Per esempio la cittadinanza: gli stranieri non votano. E poi però la Costituzione dice che il diritto di voto può essere limitato nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Ora, che cos'è l'indegnità morale? È una sorta di concetto, valvola, che si apre e si chiude come una valvola e reagisce agli umori del tempo, come il concetto di buon costume, no? Sì. Una volta era considerato un'offesa al buon costume indossare un bikini, oggi probabilmente è un'offesa vestirsi completamente, no? Sì. Allora, e anche qui il passato, per esempio, il diritto di voto era negato per 5 anni ai falliti, questa era una vecchia norma che rifletteva concezioni, come dire, settecentesche, ottocentesche, perché il fallito turba l'ordine economico, l'ordine borghese, insomma gli veniva tolto il diritto di voto, veniva tolto anche a chi, i tenutari di case d'appuntamento. Adesso quindi la legge Severino che cosa fa? Mette a fuoco un ulteriore modo di interpretare l'indegnità morale e dice, a me pare ragionevolmente, che chi ha subito delle condanne penali definitive per certi reati gravi, superiori a 2 anni, quindi questa condanna, sì, allora per un arco di tempo variabile ma non meno di 6 anni, non può essere, non può andare in Parlamento. E questo è chiaro. Quindi, allora, se siamo davanti a questa fattispecie giuridica, questo significa che non c'è nessun problema di retroattività, ma è semplicemente uno dei requisiti, come l'età, come la cittadinanza, per entrare in Parlamento. D'altra parte la stessa Costituzione, un'altra norma molto obliterata, molto dimenticata, dice che chi riveste delle funzioni pubbliche deve adempiervi con disciplina e con onore. Quindi da un lato l'onore, dall'altro la non indegnità morale, credo che sia ragionevole aspettarsi che chi ci rappresenta. E quindi la tua risposta mi sembra abbastanza chiara, no? Dovrebbe dimettersi, oppure si dovrebbe votare per la decadenza. Ma vorrei cominciare a sentire le vostre voci, le vostre opinioni al numero verde 800 24 00 24. Mi pare che ci fosse per primo Mario dalla provincia di Cremona. Mario. Sì, grazie Roberta. parlando dell'11 settembre, io ho fatto 40 anni di matrimonio. Proprio l'11 settembre l'hai fatto? 11 settembre. Sì, un disastro o una cosa meravigliosa? Vabbè, quando ho 40 anni bisogna anche accettare il più e il meno. Ci sono molto... tante cose positive e tante cose negative, sì, però... Molto saggia e molto anni... onesta questa tua dichiarazione. Bisogna anche... molte volte mandare giù e far finta di niente, e anche l'altra parte, mia moglie manda giù, perché sennò dobbiamo litigare tutti i giorni. Bravo, mi piace questa, cioè, allora, se si decide di stare insieme. Prego. Per questo, per il fatto di Berlusconi, io 3 anni fa feci una, si può dire, una cosa onesta. C'era un ragazzo che io faccio il venditore, sì, non dico di, perché sennò mi conoscono, ho già delle pendenti in ballo. Oh, ho fatto una bolla a questo ragazzo, lui ha preso il materiale. L'altra persona che ho fatto la bolla gli ha fatto uno scontrino fiscale. Per legge siamo a posto. Il mio datore di lavoro è venuto a sapere questa cosa, è uscito, mi ha licenziato. Licenziato, mi ha detto, se questo documento va in mano alla finanza, io vado in galera, anche per 400 euro di roba. Cioè, io dico, ma questo signore ha trafugato milioni e milioni, cioè da senatore non si dimette? Cioè, bisogna sempre stare qua a parlare di questo signore, dove ci ha rovinato anche l'Italia? La ringrazio, Roberta. Grazie Mario, e buona continuazione. Adesso, sempre il numero verde, c'è Rolando da Novara. Rolando? Pronto? Pronto Rolando, stavi cucinando? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei intervenire. Sì. Pronto? Sì, no, intervieni pure Rolando, ci sei. Sì. Allora, io vorrei intervenire sulla problema di ormai noto di Berlusconi. Mm. Allora, tu è stato condannato a una condanna in terzo grado, perciò definitivo. Mm. La commissione senatoriale deve solo stabilire se per questa condanna è ancora degno di rimanere all'interno del Senato oppure essere espulso. Mm. Allora, il problema è questo, la Severino non c'entra nulla, a mio avviso. Della legge, perché Severino. La Severino potrebbe entrare solamente dopo che c'è stato bandite nuove elezioni, e le nuove elezioni la Commissione dovrà stabilire se è o non è degno di presentarsi in base alla legge Severino, ma in questo momento è la legge penale che ha stabilito quella condanna, e il Senato deve stabilire, la commissione senatoriale deve stabilire se o non è degno di rimanere all'interno. In base, sì, questa è più una questione morale e politica, ma credo che c'entri anche la legge Severino rispetto alla decadenza. La Severino, Rolando. La legge Severino dice l'incandidabilità. L'incandidabilità della persona se ha subito una condanna superiore a 2 anni. Infatti, mi pare che in questo momento, come è venuto per Tanassi prima, per Pietro Longo ancora precedente, il Parlamento deve stabilire se può essere arrestato o non è arrestato, perché gode dell'immunità parlamentare temporanea. Rolando, senti, prima di addentrarci magari in dettagli un po' complessi, siccome abbiamo qui un massimo esempio di costituzionalista che è Michele Ainis, Rolando, io ti ringrazio e passerei la palla a lui. Michele, aveva ragione Rolando, o forse comunque c'entra anche la legge Severino al di là delle opportunità politiche e morali? Diciamo che la legge Severino dice che per candidarsi bisogna essere candidi. Però se già c'è dentro, invece, diceva Rolando, se già un esponente politico è già parlamentare... Perché già parlamentare, la legge Severino testualmente dice che la palla va alla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. Questo articolo dice che ciascuna Camera giudica sulle cause di ineleggibilità sopravvenuta, mm-hmm, e saremmo quindi in questa in tema in questo caso sopravvenuta, quindi venuta dopo, insomma, dopo, nel senso che lui era eleggibile quando è stato eletto, ma adesso la cosa diventa problematica. Uno dei punti, se dobbiamo continuare sui profili molto tecnici, o davvero tanto la trasmissione in chiusura e ci perdiamo gli ultimi ascoltatori. ascoltatori di No, in chiusura, cioè, fino alle 15 andiamo avanti. Però prosegui se volevi completare il discorso, Michele. Ma il discorso è un po' questo. Allora, quando i costituenti scrivono la carta costituzionale, prevedono due garanzie, due prerogative per i parlamentari che riguardano la loro libertà personale e la loro libertà politica. Sulla libertà personale, che è quella che può essere compressa quando insomma tu vieni arrestato, il vecchio articolo 68 stabiliva che occorresse un voto delle Camere anche per eseguire una sentenza definitiva di condanna. Quindi se fosse rimasto in vita il vecchio articolo 68... anche sulla condanna potevano intervenire? La stessa condanna, quindi un anno di reclusione, quello che è, sarebbe stata sottoposta ad un voto delle Camere. Al tempo di Tangentopoli, dal 92, non è più così, è stato modificato l'articolo 68 e quindi il parlamentare... può essere arrestato senza un voto delle Camere ove ci sia una sentenza definitiva di condanna. Invece è rimasto inalterato un altro articolo, l'articolo 66, quello che abbiamo citato poco fa. Ora, questo articolo appunto chiama in causa di nuovo le Camere per decidere sulla libertà politica dei parlamentari e quindi sulla loro permanenza in Parlamento. Se questa decisione fosse obbligata, cioè fosse una presa d'atto, se le Camere dovessero semplicemente mettere un timbro su ciò che la legge ha disposto o la sentenza ha disposto, si potrebbe porre un profilo di legittimità costituzionale della legge Severino, perché la legge Severino in questa ricostruzione obbligherebbe le Camere negandogli il potere di valutare le circostanze. Io credo viceversa che invece questo potere le Camere ce l'hanno, cioè le Camere che non possono impedire che un parlamentare vada in gattabuia se una sentenza definitiva lo ha condannato, possono viceversa impedire che perda il seggio da parlamentare in base a una valutazione che è tutta politica. Potrebbero dire vabbè, a me però interessa mantenere la composizione del Senato qual è oggi. E quindi non lo facciamo decadere. Però scusa, se ne assumerebbero la responsabilità certo. politica. Ma a proposito di questo, Michele, quindi a proposito degli aspetti tecnici, dei dettagli, facciamo una questione appunto di decoro, di opportunità, eccetera. Chiunque siano i nomi in campo, adesso io si cita Berlusconi perché è il suo caso così eclatante, e cito Josefa Idem di nuovo, no? Perché davvero penso che a volte ci siano troppi pesi e troppe misure diverse, al di là di quali siano le appartenenze politiche, eccetera. Ma sulla sua questione dell'ICI poco chiara, che aveva probabilmente evaso qualche pagamento dell'ICI, eccetera. Cioè, com'è che è stata linciata praticamente nel giro di due giorni e fatta fuori, che era appena diventata ministra, e in questo caso invece ci si dibatte, ci si scontra, si torna a trovare un accordo, poi di nuovo... Com'è? Per l'importanza forse della persona in campo da un punto di vista politico e della storia d'Italia degli ultimi 20 anni, o per cosa secondo te? Molto sinceramente, perché con l'una un trattamento e dall'altra parte invece... diciamo che stiamo parlando di scelte individuali. La ministra, l'ex ministra dello sport, ha scelto lei di dimettersi. L'avranno accomodata, secondo me, verso la soglia, verso l'uscio. Certo, diciamocelo. Certo, però, insomma, almeno formalmente è stata una sua decisione. In questo caso non c'è ancora una decisione, vedremo qual è. Però il vero, io credo, fatto politico, è inutile nascondersi dietro un dito, Berlusconi è leader di un partito personale. Di un partito, cioè, che sostanzialmente... Che se scompare lui dalla scena... Ecco, altro sarebbe se un alto, altissimo dirigente del PD fosse... Perché il PD comunque è qualche cosa che, diciamo, supera la somma dei suoi dirigenti. Il PD è un partito... Anzi, è un gran guazzabuglio, possiamo anche dire, no? Nel senso che adesso anche lì c'è la lotta per la leadership, non si capisce chi potrebbe essere, o forse si capisce ma non si vuole, eccetera, eccetera. Sì, diciamo c'è un eccesso di capetti, al contrario. Però invece nel PDL c'è un unico capo riconosciuto, e quindi mettere in discussione la sua libertà politica, perché di quella stiamo parlando, è chiaro che diventa un grosso problema per il PDL. Questo dipende dal fatto che la storia dei partiti, devo dire non solo in Italia, ha subito cito tre frasi: i partiti nascono nell'Ottocento come raggruppamenti di notabili. Dopo, con il suffragio universale in Italia, con la legge Giolitti, insomma, ai primi del Novecento, diventano partiti di massa. Universale, che era solo maschile, però, no? Fino alla Seconda era Guerra Mondiale. Maschile, certo. Dopo le donne votano per la prima volta il 2 giugno del 1946 con il referendum e col voto della sulla Repubblica. Sì. Poi però si è avviata ormai da tempo, diciamo in questa seconda Repubblica, nella Seconda Repubblica c'è una terza stagione dei partiti che diventano spesso dei partiti personali, la lista Di Pietro, la lista Pannella, quella Segni quando ci fu, e potremmo continuare a lungo. E forse nel futuro o nel presente prossimo Renzi, poi di questo ne discuteremo dopo. Michele, ti fermo un attimo perché volevi concludere brevemente. No, era solo per dire che il più personale dei partiti personali è proprio il PDL, e quindi su questo non c'è dubbio. Diventa un grandissimo problema. Prima di darci una prossima pausa, vorrei sentire sempre il numero verde 800 24 00 24, Pasquale da Catanzaro. Buongiorno. Buongiorno Pasquale. Intanto complimenti per l'esempio di Beautiful, perché è stato straordinario. Lo trovo veramente calzante. Io sono un iscritto nel PD e nel PD è Beautiful elevato a oltranza, al cubo anche. Ad oltranza, ok. No, guardi, io le voglio dire una cosa. Intanto sul Porcellum, ecco, il Porcellum, già la parola dice tutto, però per me è una legge ignobile. Però facciamo attenzione, e le parlo dalla mia latitudine. Alle mie latitudini, molti politici, politiconi li chiamo io, no? Lavorano, vivono sul bisogno della gente. Quindi, quando un consigliere regionale ha 14.000 euro con i quali, qualcuno usa un termine terribile, oleare gli ingranaggi, è difficile poi, se tu fai una legge dove voti la persona e hai questi capobastoni che sono liberi di fare quello che vogliono, poter competere in elezioni, capito? Cioè, in realtà il Porcellum è pietoso, ma la legge, una legge elettorale che prevede il voto alla persona in condizioni così anomale come il Mezzogiorno d'Italia, è pericoloso. E in Mezzogiorno d'Italia il bisogno è altissimo. Io sono a Catanzaro, avrete saputo che a Catanzaro c'è stata compravendita dei voti e sono state ripetute le elezioni con un giovanissimo candidato, Salvatore Scalzo, 28 anni, che poi ovviamente hanno fatto ripetere solo su 8 sezioni su 90. Se si sono comprati il voto su 90, provi ad immaginare lei cosa hanno fatto su 8 sezioni. Quindi scusami, rispolvere un po' la memoria, quindi a Catanzaro che sindaco c'è? Adesso c'è un sindaco di centrodestra che, insomma, non mi permetto di mettere in discussione, perché voglio dire, c'è stato tanto di approvazione del prefetto, quindi va bene così. Però l'altro candidato, Salvatore Scalzo, che ha perso per uno 0,23%, perché questo sindaco ha vinto con il 50,23%, quindi chiaro, cioè, giusto per capirci, nella prima fase c'era stata una conclamata evidente compravendita di voti e quindi si è andata al TAR, si è usciti da questo TAR dove hanno detto sì, è vero, c'è stata compravendita di voti, però voi avete denunciato 8 sezioni, perché noi siamo riusciti ad andare e a quindi solo in quelle 8 sezioni controlleremo. Però Pasquale, in sintesi, tu vuoi dire che ti fa paura, a parte il Porcellum che è indegno, dici anche le preferenze, questo vuoi dire? Sì, ho capito bene. Sì, al Mezzogiorno mi spaventano da morire. Poi ne parleremo dopo con Michele Ainis. Pasquale, io intanto ti ringrazio, salutaci la Calabria, che se ne parla un po' poco, a parte purtroppo in questi giorni per l'incidente sul lavoro alla Lamezia Terme. Pasquale, ti ringrazio, noi ci risentiamo tra pochissimo con Michele Ainis, con le vostre telefonate 800 24 00 24 e naturalmente non possiamo mancare, ci sarà il nostro collegamento come sempre con un altro pianeta, l'unica trasmissione al mondo che è anche questo collegamento interplanetario. Avresti mai pensato di poter arrivare così vicino? A settembre, gli Infinity Performance Days ti aspettano. Questo weekend entra in un centro Infinity ed effettua un test drive su un modello della gamma. Puoi vincere un VIP pack per il Gran Premio di Abu Dhabi. Concorso valido dal 1 al 30 settembre. Regolamento completo su infinity.it. Ciao, sono Mario Tozzi. Nella mia esperienza di geologo ho imparato che una semplice crepa nel muro può nascondere un problema di cedimento nel terreno di fondazione della casa. Uretek risolve il problema. Con il sistema brevettato ad iniezioni di resine espandenti, Uretek risolve in modo definitivo, rapido ed economico. E con la garanzia di 15 anni di esperienza e oltre 15.000 interventi. Chiama Uretek per un preventivo gratuito 800 200 044 oppure vai su uretek.it, perché Uretek risolve. Comunicato riservato ai commercialisti. Non cadere nella trappola. Rinnovare il canone del tuo vecchio software significa non rinnovare lo studio. Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout. Elimina la necessità di server, copie e aggiornamenti, riduce i costi, organizza lo studio in modo efficiente, permette di offrire ai clienti nuovi servizi collaborativi online, anche con tablet e smartphone. Chiama all'800 41 42 43 ed incontra Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout. Italiani, rinuncereste mai alla bellezza? No! E alla bellezza più bella di tutte? Quella del design e degli arredi made in Italy? E allora, italiani, mobilitatevi! C'è il bonus mobili! Fino al 31 dicembre 2013 c'è il 50% di bonus sui mobili in tutti i negozi d'arredo made in Italy. Italiani, mobilitatevi! Maggiori dettagli su www.bonusmobili.it. È una campagna Federlegno Arredo. IDEF Fenice è un operatore integrato presente nel mercato delle utilities industriali con un'offerta completa di servizi di efficienza energetica. Presente in più di 85 stabilimenti in Europa, IDEF Fenice propone progettazione, realizzazione e gestione chiavi in mano di sottostazioni, caldaie, sale compressori, centrali di cogenerazione. Un partner unico che accompagna l'impresa dall'identificazione delle piste efficienziali alla realizzazione dei risparmi previsti. IDEF Fenice, l'energia che conviene. www.edef-fenice.com. Ma chi mi dice con chiarezza e competenza quando potrò andare in pensione? Io devo presentare l'ISEE per l'assistenza sanitaria alla scuola materna. Ho bisogno di una badante per assistere la mamma anziana. Insomma, previdenza, assistenza, sanità, fisco, immigrazione. Chi mi sa dire esattamente quello che mi serve? Te lo dice EPASA, nelle oltre 1000 sedi CNA. EPASA e CNA, valore d'insieme. Non ci sono più le mezze stagioni. Riprendiamo dunque, sempre Roberto Giordano con voi, con Michele Ainis, opinionista estemporaneo di oggi, costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera e di altre testate. E vi ricordo che questa è la terz'ultima puntata di Non ci sono più le mezze stagioni, dopo tante tante stagioni passate insieme. Poi vi aggiornerò man mano su dove sarò collocata, se succederà. E intanto, prima di Ezio da Padova, il numero verde 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde al quale potete telefonare in estrema libertà. Di Renzi direi, Michele Ainis, che parliamo tra pochissimo. Allora, abbiamo parlato della leadership da una parte solitaria di Berlusconi e di tutti i problemi conseguenti, quindi se decadesse da senatore, e dall'altra parleremo anche dei problemi del PD. Però intanto, come vi avevo annunciato, ci sarà siccome noi abbiamo, Carmelo, mentre c'è Giorgio De Luca che riceve centinaia e centinaia di telefonate, volevo anche fare una telefonata, visto che abbiamo anche questo canale privilegiato con il Parlamento. Mi sembra che forse le cose ultimamente siano un po' più tranquille, un po' più calme. Proviamo a telefonare. No, la situazione. Va bene, mettiamo giù il telefono. Grazie. Sentito? E allora colleghiamoci con Marte. Riflessioni da Marte. Va detto, da ciò che si è potuto osservare da quassù, da Marte, con l'immancabile telescopio, che la politica italiana si è evoluta negli ultimi tempi, o forse, come si potrebbe dire, affinata. Mentre infatti, sino a poco tempo fa, vi ricordate, tra le avverse fazioni politiche volavano insulti grevi e sboccacciati tra nani, mortadelle, oranghi e diti medi alzati, ora l'attacco all'avversario politico è divenuto assai più sottile, un esempio lampante. Questa settimana un parlamentare del Movimento 5 Stelle ha gridato con indignazione, rivolto a quelli del PD: siete peggio di quelli del PDL! E la presidente della Camera, senza por tempo in mezzo, immantinente, intervenuta urlando: non offenda! Dando così, suo malgrado, origine, bollando la comparazione tra i due partiti, all'ipotizzabile insulto di faccia da PDL. Ma a dimostrare come ci si debba comportare con gli avversari politici ci pensa il sindaco di Cantù, eletto con una lista civica sostenuta dal centro-sinistra, il quale dopo il gran rifiuto di Milano ha deciso di accogliere lui, nella sua città Brianzola, il raduno europeo dell'estrema destra. E di cosa ha parlato il sindaco di Cantù nel raduno neofascista europeo? Di resistenza. Diciamolo, un contropiede da autentico fantasista, quasi un marziano, si potrebbe dire. A proposito, lo sapete che secondo uno scienziato americano, Stephen Banner, forse gli esseri umani vengono tutti da qui, da quassù, dal pianeta rosso? Lo ha detto durante la conferenza Goldschmidt a Firenze, rilanciando l'idea che la vita sia giunta sulla Terra, insomma sul globo terracqueo, grazie a un meteorite marziano. Beh, a guardare da quassù certi umani, soprattutto nei palazzi che contano, devo dire che non mi somigliano per niente. Non mi somiglia per niente. Ecco appunto, ma a proposito di marziani, dove vivono coloro che da più parti, di tanto in tanto, circa due volte al mese, dicono che la ripresa è partita? Forse è partita nel senso che se n'è andata? No, perché qualcuno si è accorto per caso che le cose vanno effettivamente meglio? Per esempio per le imprese? Per l'occupazione? Per le famiglie? Bah. Forse è per questa situazione, per questo reiterato sconforto, che dopo 50 anni dalla prima lacrima sul viso, Bobby Solo esce proprio in questi giorni con una nuova lacrima? Ancora piango alla mia età. Una nuova lacrima scende già. La prima è scesa 50 anni fa, quel ragazzino di successo. E ancora qua ho lacrime salate, molto care, le dispenso solo a persone rare. Mi guardo attorno, tutto male, andiamo a fondo e tutto cade. Futuro incerto, insicuro, chiaro è solo dove andiamo, ma resta un chiaro scuro. Ci hanno sporcato i sogni, smantellato ogni possibilità. Così oggi sono giorni di preghiera. E torniamo con i piedi per terra. A proposito della ripresa economica, anche tu l'hai percepita. Mi sembra un po' come la questione dell'umidità percepita, Michele Ainis. Ti sembra magari tu? Ma infatti, però forse dirle le cose le fa anche accadere. Ah, come la profezia autoavverante, sì, si dice in psicologia. A forza di dire avverrà, avverrà, avviene a un certo punto. Chi lo sa. Ma. No, mi faceva venire in mente invece, mentre tu citavi quello scienziato che sostiene che la vita sulla viene Terra da Marte. Viene da Marte, dal pianeta rosso, ecco, quantomeno sappiamo le toghe rosse dal dottor Marziani. Sono gli unici veri rappresentanti superstiti, diciamo, perché gli altri poi si sono evoluti. E volevo anche dare uno sguardo su questo tema della percezione della ripresa, anche alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Vediamo tra i tantissimi commenti, Maria Donata dice direi proprio di no, non c'è questa ripresa. Imerio è solo un attenuante che serve a coprire le intenzioni del PD di salvare il leader del PDL. Il sistema stava funzionando alla perfezione, niente ripresa, disoccupazione record e niente investimenti. Leonardo scrive, ricorso alla cassa integrazione in aumento del 4,3% ad agosto, stime del PIL in ribasso. La ripresa la vede solo Saccomanni, peccato che gli industriali non sono d'accordo e sono lì a chiedere misure di riduzione del costo del lavoro, mentre il governo autocelebra la stabilità in favore di un immobilismo assoluto, così dice anche Renzi, dice non è stabilità ma immobilismo, poi ne parliamo. Mauro scrive, ripresa, decadenza, anzi decadentismo. Per Gualtiero non c'è nessuna ripresa. Maurizio scrive, dov'è la ripresa? La luce in fondo al tunnel, ma che molti invece interpretano come il treno che sta arrivando in fondo al tunnel. Giuliana, non mi pare proprio che ci sia la ripresa, solo a parole. I negozi continuano a chiudere, i disoccupati aumentano, cassa integrazione a go-go, per non parlare delle imprese che falliscono o si trasferiscono all'estero. Le compravendite di alloggi sono crollate, i mutui sono un'utopia, clandestini che arrivano a go-go, carceri traboccanti di detenuti tutti sulle nostre spalle, opere date in appalto e imprese che appena presi i primi acconti, guarda caso, falliscono e spariscono, questuanti ad ogni ingresso di negozi, chiese, quelli che ti fermano direttamente per strada mentre stai mangiando qualcosa al bar, IMU e IVA in tutto sospeso, il governo che traballa. Marta, ma dove un marito che ha un contratto settimanale, io uno stipendio che paghi un affitto e due bollette ed è finito, non c'è più potere d'acquisto. E nella mia città, Parma, c'è una miriade di disoccupati di ogni età. Giulio, la ripresa non c'è da più di 20 anni, si continua a parlare di una sola persona e di come uscirne, ma di come uscire dalla crisi mai. Zero riforme, zero tagli, solo bla bla, non riescono manco a copiare le manovre economiche dei paesi vicini. Una vergogna. Raffaele, ma che ripresa, è tutto un disastro e nella scuola si tagliano le risorse. Il maestro di mio figlio ha chiesto a noi genitori di fare le fotocopie per i lavori in classe, e via dicendo molti altri commenti. Capito un po', Michele Anis, qual è la situazione secondo almeno gli ascoltatori di Non ci sono più le mezze stagioni. Ma sentirei Ezio da Padova all'800 24 00 24. Ezio. Sì, eccomi qua. Eccoci. Io pongo due domande. Una molto, mi sembra evidente. Allora, io dico, se il reato di quello economico, di truffa o quello che è, frode fiscale, dovrebbero parlare semplicemente le carte. È vero o no? Se questo è vero, beh, allora se c'è la sentenza c'è. Definitiva, direi. Infatti. Secondo, delle due l'una, se i giudici stanno perseguitando il dottor Berlusconi, evidentemente stanno commettendo un reato, probabilmente anche di eversione, non lo so, un reato molto grave. Allora, o è colpevole Berlusconi o sono colpevoli i giudici. Uno dei due, bisogna qualcuno capire. Qualcuno ci può dire qualcosa? Non so, grazie Ezio. Michele, vuoi dire qualcosa brevemente? Grazie a te Ezio. Diciamo, noi in questo mondo non abbiamo delle verità assolute. E su questo quella giudiziaria è una verità giudiziaria. Esiste anche l'errore giudiziario, senza citare Sacco e Vanzetti o Tortora. Punto di domanda, in questo caso si è trattato di un errore giudiziario? Questa la risposta la lascio a chi ci ascolta, però intanto la verità giudiziaria va accettata in uno stato di diritto, tenendo anche conto che se sopravvengono dei nuovi elementi di prova si possono riaprire, dici, le si può sbagliare anche una sentenza della Cassazione definitiva. Senti, invece, a proposito, diamo un giudizio non giudiziario su Renzi, che in questi giorni ci ha dato giù pesante anche dalla festa del PD. Ieri era un torrente in piena, credo sia andato avanti 3 ore ininterrottamente, io non so dove trova le energie. Comunque è attaccato più volte in questi giorni il Letta, parlando appunto di immobilismo anziché di stabilità, e dicendogli che lui deve pensare al paese e non solo alla seggiola. Insomma, l'ha accusato un po' di stare un po' incollato alla sua poltrona. Mi pare che se le siano dette, perché poi Letta ha detto qui non bisogna far battute ma lavorare, quindi se le son dette a vicenda. Questo comunque chiama in causa il governo Letta e il voto che possiamo dargli. Che voto dai governo Letta tu? Ma io farei però un esercizio contrario: se non ci fosse stato questo governo, staremmo peggio o meglio? Dammi tu la risposta. Io credo peggio. Se domani il governo cadesse e si andasse una lunga e velenosa campagna elettorale, la nostra economia migliorerebbe o peggiorerebbe? Alcune riformine, è chiaro che lavora in condizioni molto ostiche, con una maggioranza così di traballante, no? Un po' innaturale. Però, per esempio, sono arrivati 500 milioni per la scuola e non succedeva da non so quanti secoli un investimento sulla scuola. Quindi assunzioni. Adesso non devo fare né il palazzino né la sentinella. No, è chiara la tua risposta. Adesso, Michele, vorrei sentire Anna da Roma, all'800 24 00 24. Anna. Buongiorno. Buongiorno, Anna. Allora, io vorrei fare due domande veloci. Sì. Una, ai miei tempi, io sono un po' anziana, esisteva lo spirito della legge. Vorrei sapere se è perso e quindi tutti questi cavilli possono non esserci più, oppure invece esiste ancora. La seconda domanda è questa. Tutto questo tentativo di... Chi è? Anna, c'è una telefonata sotto? Pronto, Anna? Non ci ha dato, ci ha lasciato così in suspense. Vediamo se riusciamo a recuperarla, così capiamo qual è la seconda domanda. Intanto invece andrei a un nostro appuntamento che ritorna almeno per queste ultime 3 puntate. Il nostro Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, su cosa hai riflettuto ultimamente? Don? Stai riflettendo ancora? Pronto, Don? Che è successo? Questo è un sabotaggio, un boicottaggio. Don Severino, ci sei? Vabbè, lo recuperiamo. Alessandro da Piacenza, hanno lasciato il posto a te, Alessandro. Tu ci sei, vero Alessandro? Allora è un problema questo di linee. Carmelo, risolvi immediatamente. Tu, Michele Ainis, ci sei? Sarei tentato di star zitto. Mi facevi un brutto scherzo. Senti, Michele, mentre risolviamo qua tutta la storia del centralino che sarà andato in tilt, proprio per queste centinaia e centinaia di telefonate, ritorniamo sulla questione Renzi. Allora, diciamo la parte, la corrente, perché poi si offendono il PD se parli di corrente, però effettivamente ce ne sono diverse, no? D'Alema, Bersani, eccetera, Bersani non ancora ufficialmente, stanno promuovendo Cuperlo. Ora io dico con tutto il rispetto, no? Con tutta la stima, per carità, io vorrei sapere tra coloro che andranno alle primarie, che sicuramente sono più preparati di chi invece sta a guardare che cosa succede, quanti conoscono Cuperlo e lo voteranno? A volte mi sembra che facciano delle manovre un po' senza molte spiegazioni. Beh, molto dipenderà dalle regole delle primarie. Ah. Se alle primarie potranno votare soltanto gli iscritti da 35 anni al partito, e allora le chance, diciamo, di chiunque altro che sia espressione della, così, maggiormente dell'apparato di partito, aumenteranno. Se le primarie saranno più aperte, è chiaro che non c'è partita. Non c'è partita, Renzi. Dimmi solo questa cosa prima di riprendere Don Severino. Diceva, ecco Scalfari, Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, in questi giorni è tornato in auge per la lettera che si è scambiato con il Papa, diceva: io non ci vedo Renzi come Letta che va nel consesso europeo a discutere con gli altri leader, o da Obama negli Stati Uniti, non ce lo vedo. Tu? Questa è una opinione, io però non mi pare che come sindaco di Firenze abbia lavorato male, mi pare che la maggioranza dei fiorentini sia contenta del suo governo. Certo, altro che governare una città, però una grande una città, nazione, una nazione, un'altra cosa. Paese. Magari c'è un fatto generazionale però in queste diffidenze. Però Letta e lui, sì, cos'hanno, una decina d'anni forse di differenza, non sono sì, tantissimi. Però comunque l'immagine di Renzi è molto vincente, comunicativa. Si presenta con questo piglio un po' sbarazzino del Camburrasca, e questo può esserci una difficoltà ad essere... A parlare con Obama, diciamo. Vabbè. Prenderlo, ma io non lo so, però Obama però... è diventato a 40 anni Presidente degli Stati Uniti, siamo noi che siamo abituati gerontologhi a attribuire le cariche di governo dai 70 anni in su, cariche di governo altre, no? Forse è tornato Don Severino, proviamo a vedere. Pronto? Don Severino, dove eri finito? Scusami. No, era caduta la linea, ma l'ho richiamato. Vabbè, non è colpa tua. Dici pure che riflessioni hai fatto allora. Brevissimamente, sì. Siccome... diciamo la presenza di questo Papa a me entusiasma parecchio, insomma, no? E soprattutto che lui risponde un po' a tutti, anche a telefono. Quindi se lo chiamo, diciamo, mi risponde, se lo chiamo, adesso magari proviamo dopo. Dici, lo chiamerei, inviterei, diciamo, gli ascoltatori a inviare, diciamo, delle lettere al Papa affinché intervenga su argomenti e temi veramente, veramente profondi, tipo il matrimonio dei gay, l'eutanasia, le ha già detto che non ne vuole molto sapere, mi sembra. Cioè... È appunto per questo, appunto per questo, insomma, no? Perché è bellissima questa situazione, questa immagine, e io ne sono entusiasta, però bisogna vedere su questi fatti quali sono le sue risposte. Hai ragione. Grazie. A parte sugli aspetti metodologici, poi nei contenuti. Grazie Don Severino, alla prossima, prossimo sabato. E adesso invece il nostro appuntamento con la linguista della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle. Ben ritrovata, cara Valeria. Grazie, ben trovati a tutti voi. Ti sottopongo questo termine questa settimana, decadenza, che mi sa un po', no, di qualcosa di decaduto. Sì, insomma, è una parola molto nominata, e non solo da oggi, insomma, in tempi recenti, molto di attualità, purtroppo. Allora, la storia della parola qual è? Beh, la parola esisteva nel latino medievale ed era decadenzia, però noi nella lingua italiana non l'abbiamo presa direttamente dal latino, ma come succede spesso, soprattutto con parole astratte, parole che indicano fenomeni o politici o di costume l'abbiamo presa dalla lingua francese, décadence, che nel francese esisteva dal 1413. Nella lingua italiana quindi si è diffusa col significato appunto di declino, scadimento materiale o morale. Quindi parliamo di decadenza di una civiltà oppure di un artista oppure, come qualcuno dice, più di uno, decadenza di un paese, decadenza di una tutto nazione. Può decadere, insomma. Beh, sì. Insomma, di solito cerco sempre di chiudere con una piccola consolazione, qui è difficile trovarla, la troveremo come al solito nella lingua. Insomma, la parola decadenza, col significato che ho appena citato, è usata in Italia dal 600, la usò per primo Paolo Sarpi. Quindi, insomma, consoliamoci così, con un po' d'amarezza, ma il fenomeno della decadenza veniva evocato già molti, allora, molti secoli fa, quindi sopravviveremo anche alla decadenza attuale. Grazie, grazie Valeria Della Valle. Arrivederci. Ciao Valeria. E intanto chiedo scusa Anna da Roma, non riusciamo più a riprenderti perché mancano 36 secondi. Anna, chiama prossimo sabato, io sono ancora qui. Invece Michele Ainis, ho scoperto una cosa prima di lasciarti, è che tu sappiamo già che fai parte dei 40 saggi che devono indicare come cambiare la carta fondamentale, prendere posizione sulle riforme costituzionali, eccetera eccetera. Ho saputo che andate in 3 giorni di ritiro a Francavilla Mare in Abruzzo, posto a cui sono legati dei miei ricordi bellissimi, tra l'altro. È vero che andate? Non so se è un ritiro o un confino. Decidete bene almeno, mi raccomando. Michele, tu c'hai in mano una cosa importante, la Costituzione. Ma insomma, per quanto mi costa, questa commissione deve limitarsi a scrivere una relazione, non delle proposte normative. Spero, staremo a vedere, insomma. Staremo a vedere, Michele. Poi ci aggiorniamo nello spazio della sera che inizierà più o meno a ottobre. Adesso ci lasciamo così in sospeso, vedremo cosa tirate fuori dal cilindro. Grazie Michele Ainis, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.